dare i figli tuoi in mezzo ad una strada senza sogni né eroi. Le pazze, le classe, dei borghesi mi fa venire in nervi intesi. Non voglio più ascoltare chi mi opprime e chi mi inganna. I poliziotti e gli arroganti, i giornalisti e i manifestanti. Se non c'è offesa, voi fate di cazzo. Viva la festa! Vorrei fregare e vivi solamente come quando ti pare. Repressione, tavole rotonde contro questi giorni delinquenti. E se non balli sei fuori dal gioco. E se non strisci proveranno a fuoco. Le donne fredde e impenizzate, i ben pensanti, i politicanti. Se non siamo festa, voi fate di cazzo. Viva la festa! Pieni sporchi, ragazzi nascosti nei vicoli buri, urleranno ancora da non siamo morti. Verrà il giorno e forse un giorno si ruberanno anche il sole. I ben pensanti e politicanti, i poliziotti, gli arroganti. Se non c'è offesa, voi fate di cazzo. Viva la festa!